384. Fagiuoli a guisa d'uccellini. Nelle trattorie di Firenze ho sentito chiamare fagiuoli all'uccelletto e fagiuoli sgranati, cucinati così. Cuoceteli prima nell'acqua e levateli asciutti. Mettete un tegame al fuoco con l'olio, in proporzione, e diverse foglie di salvia. Quando l'olio grilletta forte, buttate giù i fagiuoli e conditeli con sale e pepe. Fateli soffriggere tanto che tirino l'unto e di quando in quando scuotete il vaso per mescolarli. Poi versate sui medesimi un poco di sugo semplice di pomodoro e allorché questo si sarà incorporato, levateli. Anche i fagiuoli secchi di buccia fine possono servire al caso dopo lessati. Questi fagiuoli si prestano molto bene per contorno all'esso, se non si vogliono mangiare da soli.